I titoli vanno bene, spiega l'articolato meno. Urne aperte in Scozia per il voto sulla secessione della Gran Bretagna. Appello da Washington. Siete partner straordinari. Restate uniti. Gli indipendentisti. Il paese libero sarà più ricco. Nuovo voto per eleggere i membri della Corte Costituzionale dopo l'appello di Napolitano di ieri. Spero in una soluzione di alto profilo, dice Renzi. Terrorismo. A Sydney arrestati in 15. Progettavano di rapire e decapitare persone comuni come vendetta per l'invio di soldati australiani. ISIS diffonde un filmato nel quale minaccia di attaccare New York. Si chiude la prima asta della BCE per le banche. Oltre 85 miliardi di euro che sono vincolati a prestiti per le aziende. E quasi 8 miliardi per Unicredit e 3 per Monte dei Paschi. Dubbi sull'impatto della misura. Ora tocca all'Inter. Dopo la vittoria della Roma 5-1 al CSKA Mosca in Champions, i nerazzurri alla prova dell'Europa League contro la squadra di Kiev. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Come sempre potete scriverci effettogiorno@radio24.it. Durante la trasmissione via SMS al 349-238-6666. Tra un attimo parleremo di lavoro, ma prima una notizia battuta poco fa dalle agenzie che è importante perché finalmente il governo pare avviato alla revisione delle stime sul prodotto interno lordo. Ci sono delle cifre fornite oggi dal sottosegretario all'economia Enrico Zanetti in vista della scrittura della nota di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza. L'economia italiana quest'anno potrebbe registrare un risultato negativo, ossia un calo compreso tra lo 0,1 e lo 0,2%. Ricordiamo che molti istituti internazionali come l'OCSE stimano un calo del PIL dello 0,4%, così come fa il centro studi di Confindustria. E però noi partiamo dalla riforma del mercato del lavoro perché su questa si sta riaccendendo lo scontro all'interno del Partito Democratico, in specie tra la minoranza e la maggioranza del PD. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Voto sulla legge delega a Palazzo Madama atteso per oggi in commissione lavoro. Intanto il testo passerebbe così in aula dalla prossima settimana. Tra circa un'ora sarà preso in esame proprio l'emendamento presentato ieri dal governo all'articolo 4 del Jobs Act e che introduce il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i neoassunti. Emendamento che apre di fatto la strada alla non applicazione dell'articolo 18, anche se poi tutto, come ha spiegato il ministro del lavoro Poletti, dipenderà dai decreti delegati che saranno varati dal governo in futuro. Ma la mossa di Palazzo Chigi ha inevitabilmente aperto una frattura all'interno del PD e tra esecutivo e sindacati. I titoli del Jobs Act sono condivisibili, lo svolgimento meno, ne discuteremo in direzione, ma servono correzioni importanti al testo, ha dichiarato poco fa il presidente del PD Matteo Orfini. Di intenzioni surreali del governo parla Bersani. La delega sul lavoro è in corso di perfezionamento, è giusto che il PD si ritrovi a discutere e definisca la propria posizione, replica il vice segretario Guerini. Dicevamo dei sindacati. Simone, non mi piace se Renzi modifica l'articolo 18, dice Landini. Fiom non esclude lo sciopero. Camusso, CGL di mobilitazione unitaria, parla Bonanni, CISL. Sempre sul fronte sindacale sembra possa andare a buon fine invece la trattativa tra governo e forze di polizia. 1 miliardo per sbloccare gli aumenti degli stipendi nel 2015. È tutto, linea allo studio. Ma quali sono al momento i contenuti della delega? Sentiamo. Un contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti, ma anche più flessibilità nelle mansioni e meno vincoli per i controlli a distanza dei lavoratori. Sono queste le principali novità introdotte dall'emendamento presentato dal governo al Jobs Act. A far discutere è soprattutto la prima, che prevede tutele legate all'anzianità di servizio per i neoassunti con contratto a tempo indeterminato. Un intervento che potrebbe aprire la strada al superamento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che oggi per le aziende con più di 15 addetti, oltre all'indennizzo, in alcuni casi prevede anche il reintegro del dipendente licenziato. Nell'emendamento dell'esecutivo non c'è però un riferimento diretto all'articolo 18 né al tipo di tutele graduali destinate ai neoassunti. L'obiettivo sembra comunque quello di cancellare l'ipotesi del reintegro. A definire tutti questi aspetti dovranno essere i decreti attuativi che faranno seguito al via libera al Jobs Act previsto per la fine dell'anno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 ore Roma. E non sono le sole tensioni parlamentari di queste ore quelle che riguardano il lavoro, come ben sapete ci sono quelle che riguardano l'elezione dei membri della Consulta, di quelli del CSM. Elisabetta Fiorito, eccoci, buongiorno. Buongiorno, sì, è appena finita qui alla Camera la votazione del Parlamento in seduta comune per eleggere, ricordiamo, due giudici della Consulta, i due giudici mancanti del CSM, due membri mancanti del CSM, ma ricordiamo che dopo il nuovo incontro a Palazzo Chigi con Silvio Berlusconi il Premier Matteo Renzi intanto guarda al futuro, rilancia la proposta sulla legge elettorale, spera in una calendarizzazione per la prossima settimana al Senato e rispetto alla votazione per la Consulta il CSM, il Premier condivide l'appello del Capo dello Stato Giorgio Napolitano e su questo punto sentiamo proprio le sue parole. Ha ragione il Presidente sul fatto che si debba fare veloce, vediamo se il Parlamento riuscirà oggi o nei prossimi giorni a chiudere definitivamente sia la partita del CSM sia quella della Corte Costituzionale, chiudere con una soluzione di alto livello. Tredicesimo scrutinio, come dicevamo, appena concluso qui a Montecitorio, sarà probabilmente un'altra fumata nera ufficialmente ancora in ballo, il ticket violante Bruno PD Forza Italia. Da parte della minoranza Dem, Pierluigi Bersani ribadisce che o vincono violante Bruno o i franchi tiratori sono 20 o 30 come in passato. Da sottolineare anche l'apertura del Movimento 5 Stelle che è pronto a votare però candidati liberi intellettualmente e non legati a logiche di partito. Insomma, tutti parlano comunque di uno stallo e di un accordo probabilmente per la prossima settimana. Te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Passiamo a parlare di tutt'altro voto e ci sia consentito, senza mancare di rispetto a un passaggio istituzionale importante per l'Italia, ma un voto di più ampio respiro, ossia quello per l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. C'è Francesco De Remigi, Stato di Edimburgo. Francesco, buongiorno. Sì. Quali sono le ultime? Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Partiamo subito dalla novità tecnica di questo referendum, perché non ci saranno exit poll, ricordiamo, ma solo risultati ufficiali a urne chiuse. Un punto importante, perché fino all'ultimo minuto questa scelta voluta, dicono entrambi i campi, permetterà agli indecisi di non lasciarsi condizionare. Edimburgo, le code ai seggi sono iniziate stamattina presto, già alle 7. Donne e anziani in prima fila sono le due categorie che peraltro, secondo i sondaggi dell'ultima ora, potrebbero spostare la maggioranza degli indecisi verso il no. Ascoltiamo allora la voce di uno di loro. With your heart, your head tells you maybe we should stay in the UK because we've done this now for 300 years. Io sono favorevole all'indipendenza della Scozia, ma ci sono troppe incognite che non sono state chiarite e il rischio è quello di fare un salto del buio, dice John, questo pensionato in coda. Ricordiamo che i punti di distanza tra i due fronti sono soltanto 4 e che anche i giovani sono abbastanza divisi. Questa mattina diversi punti di accesso ai seggi sono stati tappezzati da alcuni universitari con nuovi cartelli, con le strade che sembrano ormai percorsi a ostacoli. Si vota fino alle 23, come dire, la campagna è tutt'altro che conclusa. Ma le tensioni della vigilia non hanno risparmiato neppure cattive sorprese, come alcune scritte intimidatorie proprio all'ingresso di uno dei seggi, o sì o niente, si legge in una parete coperta con una bomboletta spray ed è stata mostrata poco fa dalla BBC. Alle 2 del mattino cominceranno ad arrivare i primi dati ufficiali dei 32 collegi elettorali. Gli ultimi, quelli chiave di Edimburgo e Glasgow, sono attesi per le 7 di domattina, ora italiana. Quindi diciamo che fino a tarda sera c'è tempo per votare e 4 punti nei sondaggi significa che il margine tra indipendenza e status quo è davvero ridotto. E naturalmente, grazie intanto a Francesco De Remigis, noi continueremo ad aggiornarvi, state ben sintonizzati sempre su Radio 24, ma particolarmente domattina, perché ovviamente vi daremo i risultati appena li avremo. Veniamo all'accordo, vi ricorderete, ne abbiamo parlato già nelle settimane scorse con il sottosegretario alla difesa Rossi, è stato firmato l'accordo tra il Ministero della Sanità e quello della Difesa, si partirà con la coltivazione di marijuana in un sito dell'esercito. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, il codì sarà prodotta presso lo stabilimento farmaceutico militare di Firenze, potrebbe comparire nelle farmacie già a partire dal 2015 e con costi relativamente bassi. Parte dunque da oggi la coltivazione anche in Italia della cannabis a scopi terapeutici, che dovrebbe consentire al nostro paese di diventare autosufficiente nella cura di molte malattie gravi, nella terapia del dolore. Ricordiamo che già dal 2007 è possibile in Italia l'utilizzo di questa sostanza a scopi terapeutici, ma di fatto a causa degli elevati costi di importazione, alla difficoltà di reperire questi medicinali, l'accesso alle cure è rimasto molto limitato. Infatti la stima dei potenziali pazienti che potrebbero essere curati con queste terapie varia da 600 a 900 mila rispetto ai soli 60 mila malati che finora sono riusciti ad accedere alla cura tramite la ASL. Dunque lo stabilimento farmaceutico militare diventerà l'ufficiale produttore italiano di cannabis destinato ai pazienti, produrrà fino a 100 kg l'anno, potrà anche esportare questa sostanza. Il ministro Lorenzin ovviamente ha tenuto a precisare però la netta distinzione tra cannabis terapeutica e cosiddetta ricreativa. Sfatiamo, ha detto il ministro, qualsiasi attribuzione ideologica legata a questa iniziativa e ha escluso qualsiasi possibilità di autocoltivazione della cannabis da parte dei pazienti. Ed da Roma è tutto. Grazie alla nostra Alessandra Schepisi. La cronaca ci racconta che la sorella gemella di Massimo Bossetti, Letizia Laura, Massimo Bossetti, lo ricordiamo, accusato di aver ucciso Yara Gambirasio, è stata aggredita ieri pomeriggio da tre sconosciuti che l'avrebbero sorpresa nel garage di casa dei genitori a Terno d'Isola. Siamo in provincia di Bergamo. Tre persone che l'avrebbero presa a calci e pugni e lei avrebbe perso i sensi, è stata portata in ospedale e poi dimessa. Si tratterebbe del secondo caso del genere da quando il fratello è in carcere a Bergamo, appunto con l'accusa di aver ucciso Yara. Ritorniamo all'estero adesso, ma ci spostiamo in Iraq, da dove ISIS ha mandato in rete una sorta di trailer preannunciando attacchi a New York. Di questo parleremo più avanti, ma intanto dall'Australia arriva una maxi operazione proprio contro il terrorismo. I simpatizzanti dell'ISIS, arrestati in Australia, avevano programmato delle decapitazioni nelle strade di Sydney e quanto ha dichiarato il primo ministro australiano Tony Abbott commentando il blitz di oggi che ha portato all'arresto di 15 persone accusate d'essere affiliate all'ISIS. Un'operazione gigantesca che ha coinvolto 800 agenti della polizia. Tra i 15 arrestati, un sospetto di 22 anni, Omarjan Azhari. Stando alle prime informazioni, Azhari avrebbe ricevuto l'ordine al telefono da parte dell'australiano più in vista all'interno dell'ISIS, Mohammad Barialei, nato in Afghanistan. Si trattava, secondo il procuratore che ha curato l'indagine, di scegliere gente a caso e ucciderla in modo orribile. Sono una sessantina i cittadini australiani che combattono nelle file degli jihadisti in Iraq e Siria, mentre un centinaio forniscono dall'Australia un sostegno attivo ai movimenti sunniti radicali, secondo i servizi di sicurezza australiani. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra molti dubbi anche di analisti, si chiude oggi l'asta della Banca Centrale Europea per assegnare alle banche i fondi vincolati al finanziamento dell'economia, un acronimo complesso, TLTRO, Targeted Long Term Refinancing Operations, ossia operazioni di rifinanziamento a lungo termine vincolate, cioè sono finalizzate a concedere prestiti a imprese non finanziarie. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, come è andata questa prima asta? L'andamento della prima asta è stato un po' deludente, nel senso che si era detto che le banche avrebbero fatto richiesta di almeno 100 miliardi di euro. Come hai accennato, l'obiettivo è quello di far avere questi finanziamenti a costo molto basso alle banche perché poi facciano prestiti alle famiglie e alle imprese. Il risultato è stato di 82,6 miliardi di euro, 255 banche hanno fatto domanda, hanno ottenuto i fondi, sappiamo già che Unicredit ha chiesto 7,7 e ottenuto 7,7 miliardi di euro, Banca Intesa circa 4 miliardi di euro. Le banche probabilmente sono un po' in posizione di attesa perché a metà ottobre la BCE diffonderà gli esiti dei suoi esami fatti sui bilanci delle banche stesse e quindi è più probabile che le banche abbiano voluto attendere un'altra asta che ci sarà a dicembre, quando avranno le idee un po' più chiare sul voto che dà loro la BCE e l'intenzione poi quella di far ripartire il credito all'economia reale. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sul lavoro si riapre lo scontro all'interno del Partito Democratico, servono correzioni importanti, dice il presidente del PD Orfini. Il governo pronto a rivedere a ribasso le stime di crescita per quest'anno. Ci sarà un calo del PIL tra lo 0,1 e lo 0,2%, dice il sottosegretario Zanetti. Urne aperte in Scozia per il voto sulla secessione dalla Gran Bretagna. Domani mattina si avranno i risultati. Terrorismo a Sydney, arrestati in 15, progettavano di rapire e decapitare persone comuni come vendetta per l'invio di soldati australiani. Un'ultima notizia appena battuta dalle agenzie, visto che tanto si è parlato della vicenda di Danica, dell'orsa Danica, l'orso marsicano trovato morto venerdì scorso a Pettorano sul Gizio, e siamo in Abruzzo, è stato ucciso da una fucilata, così quello che si apprende in ambiente giudiziario. Abbiamo Carlo Genta qua in studio, ciao Carlo. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Allora, grandissima Roma ieri con coda di violenze tra tifosi russi e tifosi romanisti, stasera tocca all'Inter in uno strano incrocio che vede la Roma confrontarsi con Mosca e l'Inter con Kiev. L'Inter con Kiev, con il Dnipro, che non è una squadra di Kiev, ma insomma abbiamo provato a spiegare anche quale sia la situazione del calcio ucraino in questo momento. L'Inter si troverà in Europa League con questo doppio incrocio, il primo è questo con il Dnipro, si gioca appunto a Kiev in una situazione che non è a rischio, però in un paese che è in guerra, e questo lo sappiamo bene. Quanto al calcio, la Roma ieri sera è stata meravigliosa con il CSKA Mosca. Si è dimostrata squadra europea, squadra con grande mentalità, squadra pronta a questo appuntamento, probabilmente una squadra che aveva riservato tutte le sue energie verso questo appuntamento, e dopo mezz'ora era 4-0 e tutto era chiuso. Meraviglioso Gervinho, ma meravigliosa la Roma tutta nel vincere questa partita che era già estremamente importante nello stesso girone. Tra l'altro il Bayern ha fatto una gran fatica a battere il Manchester City 1-0, Roma in piena corsa nel girone più difficile della Champions League, Simone. Grazie Carlo, tutto questo e di tutto questo parleremo in tutti i convocati a partire dalle 14, e come sempre il numero per intervenire là è 800 24 00 24. Invece, se volete commentare in diretta per effetto giorno, c'è il numero di SMS 349 238 6666. Filippo Nogarin, sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, l'abbiamo chiamata perché insomma, all'ombra della costituzione dei nuovi consigli provinciali previsti dalla legge, i quali di fatto devono essere stabiliti non dagli elettori ma dagli eletti, ossia da chi è stato eletto nei comuni della zona, naturalmente con personale ridotto, saranno 986 persone in tutto contro le 2500 che erano prima. All'ombra di tutto questo si è svolto, se non uno scontro proprio, abbiamo verificato una certa tensione in Emilia Romagna, soprattutto con il suo collega Pizzarotti, sindaco di Parma, anche lui del Movimento 5 Stelle, che sembrava vicino ad un accordo con il Partito Democratico per il voto per il presidente della provincia di Parma, e poi di fatto non se n'è fatto nulla. Vorrei capire come intendete muovervi voi. Relativamente alla questione di Federico Pizzarotti, non intendo mettere bocca, perché è corretto che ognuno poi risponda del proprio. Certo è che noi da questo punto di vista abbiamo da sempre fatto una lotta molto forte relativamente a quello che è, secondo noi, uno degli sprechi che in Italia abbiamo da togliere, cioè tutta la macchina delle province. E pertanto, per questo motivo, con coerenza non ci presenteremo alla prossima tornata elettorale, seppur con quello di questa modifica del Rio potrebbe apparire in qualche modo un settore alleggerito. Tuttavia riteniamo che, coerentemente con quello che è stata la nostra battaglia, preferiamo non partecipare attivamente a questa tornata elettorale. E quindi non esprimerete nemmeno alcuna preferenza, in sostanza? Allora, noi sicuramente non saremo all'interno né per la presidenza né per i consiglieri. Sul fatto di esprimere le preferenze, questo sta poi ai singoli, e non ci saranno, come nostra consuetudine, alcun tipo di indicazioni in merito. Sento una cosa, Nogarin, a livello più generale, io vorrei capire questo. È chiaro che voi vi ponete come una forza di opposizione dura e pura, e questo è chiarissimo. Poi arriva un momento nel quale ci si trova nelle istituzioni, ci si trova ad essere degli amministratori locali con una serie di responsabilità. In questo caso anche il fatto di, come dire, avere un presidente della provincia che per il momento qualche delega e qualche responsabilità la conserva finché non vengono abolite anche con un processo costituzionale. Insomma, non è il caso di entrare in questo processo in maniera più profonda, magari anche prestandosi e per voi, dal vostro punto di vista, sporcandosi le mani con un qualche accordo politico? Ma io questo lo capisco perfettamente, però questo è il prezzo da pagare per rimanere coerenti con quelle che sono le nostre idee. Secondo noi, da questo punto di vista, la coerenza ha un valore che è enormemente più alto rispetto a quello che può avere, e chi più di me può dirlo, l'avere una persona eventualmente alla presidenza della provincia. Sarebbe stato, dal punto di vista pratico, ovviamente un vantaggio nell'amministrare il comune. Tuttavia riteniamo che proprio per questo motivo noi andiamo a pagare un prezzo molto alto, ma questo prezzo comunque ha un valore che poi con il tempo sicuramente l'elettorato comprenderà e ci ripagherà strada facendo. E quindi, mi scusi Nogarin, da tutto ciò ne esce che alla fine Pizzarotti, secondo lei, ha fatto male a ipotizzare una cosa di questo genere? No, Pizzarotti non ha fatto assolutamente male. Io credo che comprendo molto bene quello che è stato il percorso di Pizzarotti, però, come le ho detto precedentemente, preferisco che Federico in totale autonomia abbia la sua libertà, il suo percorso di scelta, perché ogni singolo comune poi ha mille rivoli attorno ai quali è estremamente complicato comprendere quelli che sono gli accordi rispettivamente, le regole che portano un'amministrazione a una gestione così complessa come quella appunto di un capoluogo di provincia. Pertanto mi immagino che dietro a queste decisioni ci sono veramente molte riflessioni e il dover dire il no, il non partecipare a, per, come le ho detto poc'anzi, a per noi che siamo poi ad amministrare il capoluogo di provincia, ha un costo molto alto, quindi non c'è nessun tipo di problema a comprendere quello che è stato il percorso anche di Federico Pizzarotti a Parma. Allora, grazie a Filippo Nogarin, sindaco di Livorno del Movimento 5 Stelle, le auguro buona giornata e naturalmente buon lavoro. Abbiamo parlato prima di lavoro, a proposito di tutto questo, di Jobs Act, abbiamo parlato delle elezioni del voto che si sta svolgendo per i membri della Consulta, e vediamo di fare un punto su tutto questo. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, l'impressione è che ci sia qualcosa che scricchiola dalle parti di Renzi, dalle parti del governo, perché è un PD che con il presidente Orfini o con una componente del PD attacca abbastanza duramente sul lavoro. Dall'altra parte la questione dell'elezione dei membri della Consulta che non sembra prendere verso. Sì, sai, su quest'ultimo punto è un punto veramente delicato. Io ho scritto anche sul Sole che questo patto con Berlusconi, se è un patto, diciamo, istituzionale, un patto di sistema che ha l'ambizione di dare un senso alla legislatura in ordine alle grandi riforme, ai grandi temi di governo complessivo, non può prescindere da una cosa così delicata come l'elezione di due giudici che non si riesce a fare e su cui il Presidente della Repubblica ha richiamato in maniera molto accorata l'attenzione, no? È un punto che ne va di mezzo la salute delle istituzioni se la Corte non può funzionare. Allora, su questo mi sembra che si sia creata un malinteso, per usare un eufemismo. Cioè, il patto Berlusconi-Renzi funziona per individuare la legge elettorale che fa comodo a entrambi, funziona molto meno per mandare avanti una scelta dei due giudici che rispecchia, fra l'altro, diciamo, un orientamento politico generale individuato sulla carta già da tempo. Ecco, questo fa pensare che alla fine ci sia qualche cosa che deve essere registrato, deve essere rivisto, perché altrimenti questo stesso accordo generale dimostra la sua, il suo scarso spessore, e non può essere soltanto un accordo per coprire magari degli interessi o per anche degli interessi politici, deve essere qualcosa di più ambizioso. Mi sembra che su questo ci sia ancora molto da capire, e io credo che non sia nemmeno giusto che una personalità, per esempio, come Luciano Violante venga esposta a questo tipo di mortificazione, come queste continue bocciature che evidentemente dimostrano qualche cosa all'interno del Partito Democratico di non detto, di non risolto. Grazie, grazie a Stefano Folli anche per oggi, per il suo punto, e saluto Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Leonardo, ciao, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, sei ad Edimburgo tu adesso, sì? Sì. Benissimo. Davanti a una seggia elettorale. È il posto dove esatto. Bisogna essere oggi, insomma, dove guardiamo tutti. Passano spagnoli, Partito Sardo d'Azione, vari movimenti indipendentisti europei che in qualche modo si sono dati appuntamento, passano da Edimburgo, che oggi, come dire, riscalda i cuori di molti nazionalisti. Leghisti ne ha incrociati? Per ora no. Per ora non ho incrociato nessun leghista. Allora, Leonardo, allora si va al voto, domani mattina sapremo tutto, la distanza è piuttosto stretta perché più o meno 4 punti percentuali dagli ultimi sondaggi non sono molti. Io immagino che si stia preparando un piano B, cioè non succede, ma se succede. Un piano B di sicuro la Banca d'Inghilterra lo ha preparato. Il Tesoro non conferma e non smentisce, ma ovviamente anche il Tesoro, tant'è vero che George Osborne non è neanche andato al G20 in Australia e Carney, il governatore, è rientrato dal G20 stanotte. Quindi la Banca d'Inghilterra certamente ha un piano B, si sa che i bancomat delle banche qua della Scozia sono stati riempiti di contante per avere la certezza che se domani ci dovesse essere la sorpresa relativa della secessione e ci dovesse essere una fuga, come dire, una corsa agli sportelli, ci sia almeno il primissimo impatto gestibile. Ma c'è poi un problema più generale, che è quello, come dire, della fuga dei capitali che contano verso sud, banche come Royal Bank of Scotland, Lloyd's, ma anche i grandi trust. Non dimentichiamoci che la Scozia è sede di grandissimi, una quantità di trust che hanno sede qua, che ragionano sul trasferimento dei loro capitali, dei loro fondi a Londra. Quindi se questo dovesse succedere, è chiaro che la Banca d'Inghilterra ha preparato un piano per far fronte a una situazione del genere. E c'è qualche ipotesi su come si strutturi questo piano, Leonardo? No, per il momento no, però è chiaro che ci sarà una questione di emergenza di liquidità, e quindi, come già avvenne nella crisi del 2008, le banche centrali devono far fronte, la banca centrale inglese in questo caso deve far fronte all'emergenza liquidità, e quindi saranno pronti a far fronte a questa cosa, questo certamente. Allora, grazie a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, e in questi giorni naturalmente inviato ad Edimburgo, che torneremo a sentire sicuramente anche nelle prossime ore. Intanto a Londra la borsa è abbastanza tranquilla, più 0,39%, per il resto dei mercati vi rimando a tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sul lavoro si riapre lo scontro all'interno del PD, il presidente del partito Orfini all'attacco, dice servono correzioni importanti, mentre Bersani aggiunge sull'articolo 18 esecutivo surreale. È in corso alla Camera lo spoglio delle schede per l'elezione dei membri di CSM e Consulta. Renzi dice sono d'accordo con Napolitano, serve una scelta di alto profilo. A Sydney in Australia sono state arrestate 15 persone con l'accusa di terrorismo, progettavano di rapire e decapitare persone comuni come vendetta per l'invio di soldati australiani. ISIS ha diffuso un filmato, un vero e proprio trailer, nel quale minaccia tra l'altro di attaccare New York. Ne parleremo tra poco anche con un esperto di comunicazione. L'orso trovato morto in Abruzzo venerdì scorso è stato ucciso da una fucilata, a quanto pare dunque non è morto per avvelenamento. La borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, da quel che abbiamo visto poco fa, Londra non sta reagendo un granché appunto all'ipotesi di secessione scozzese nel giorno che precede i risultati, nel giorno del voto. No, Londra infatti si muove in modo marginalmente positivo, fa più 0,4%, sostanzialmente come Milano, e in linea con le altre piazze europee che sono orientate positivamente dopo che ieri la Riserva Federale Americana ha ribadito che i tassi resteranno intorno allo zero per un tempo considerevole. Positiva Milano, più 0,4% sul FTSE MIB, più 0,36% sul FTSE All Share. Bene, mi sembra un po' tutti i bancari nel giorno dell'asta, ne abbiamo parlato poco fa, di rifinanziamento a lungo termine per le banche della BCE. Sì, il comparto bancario è partito bene, ora si sta un andamento in parte contrastato, comunque Popolare di Milano sale dell'1,6%, UBI dell'1,5%, Unicredit dell'1,1%, sono in ribasso Popolare Emilia Romagna meno 2% e Monte dei Paschi meno 0,8%. L'asta, dicevamo, della Banca Centrale Europea è stata collocata per un ammontare nettamente inferiore alle attese, questo da un lato rischia di risultare un'arma spuntata per quanto riguarda l'armamentario della BCE, dall'altro però riporta in gioco ipotesi di nuove misure da parte della Banca Centrale e quindi l'ipotesi di un quantitative easing. Grazie Isabella Tasso di Radio Core Il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Allora, non c'è stata elezione dei membri di Consulta e CSM, prossima votazione martedì 23 settembre alle ore 12, questa è la notizia che viene fornita adesso dall'ANSA. Marco Lombardi, responsabile del centro di ricerca It's Time, professore associato all'Università Cattolica del Sacro Cuore, insegna gestione delle crisi e dei rischi della comunicazione, teoria della comunicazione di massa e sociologia. Tante cose, professor Lombardi, benvenuto. Mi tocca, buongiorno a tutti. Allora, non abbiamo tantissimo tempo, però sì. Volevo chiederle questo. Ieri, ISIS ha diffuso un altro filmato, della durata di un minuto e mezzo, che sembrava un vero e proprio trailer, montato, insomma, come un film d'azione americano, sostanzialmente, di quelli belli, nel quale, insomma, poi erano contenute naturalmente delle minacce agli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato spesso, però io ci vorrei ritornare su questo tema e sull'impatto che questo tipo di comunicazione che l'organizzazione jihadista ha tanto sui popoli arabi quanto su di noi. L'impatto è difficile da stimare, ma c'è. Qui torniamo dietro proprio alle vecchie teorie sulla comunicazione che ci dicono quali sono gli effetti della comunicazione, insomma che effetto fa essere esposti a un certo messaggio. È un grosso problema perché la comunicazione per IS è uno degli strumenti di battaglia, ma lo è anche per i nostri eserciti, quindi interpretarlo è importante. IS è molto bravo da questo punto di vista, ha lanciato un trailer che ha già effetto indipendentemente se seguirà altro, strategia già utilizzata dai KD 15 anni fa, ma soprattutto ci rendiamo conto che in questo modo si aggirano tutte le barriere censorie che i social hanno cominciato a mettere, YouTube, Facebook, che si mirano ai contenuti, insomma se c'è qualcosa di disdicevole in termini di contenuti si blocca, ma non in termini di fonti, chiaro c'è un problema di legittimità e di libertà, però è un interrogativo che dobbiamo farci, perché al di là delle decapitazioni, questi sono video virali che sicuramente hanno l'effetto di mobilità e reclutare personale. Allora, se questo è l'effetto, oggi questi video ci interrogano anche su quali sono le politiche di contrasto, visto che stiamo già combattendo una guerra mediatica che possiamo legittimamente utilizzare. È un problema. È una comprensione profonda quella di ISIS del sistema mediatico anche occidentale. Non a caso ci sono degli occidentali che combattono con ISIS. Questo peserà. Assolutamente, ci sono

York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza e in redazione, tutta la redazione di Radio 24, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna domani alle 13:00.